Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Uno dei motivi per cui la mela, secondo me, è il frutto dell'essere umano, uno dei motivi è la grandezza che si adatta perfettamente alla mano, la forma e la grandezza. E ci sono vari tipi di mele, però bene o male un adulto deve avere una mela di minimo 4 cm di diametro, minimo, perché altrimenti è troppo piccola. E, cioè, la puoi anche mangiare, io per esempio le annurca le mangio, però comunque capita molto più spesso di mordere un seme. Mi rendo conto quindi che in natura dovrei mangiare, potendo, solo mele che vanno bene per il mio padre. Oddio, è un problema molto discusso e un dilemma mai risolto. Se il rapporto fra dimensione e palmo potesse essere indice comunque di una misura aurea, di qualunque cosa si voglia misurare. Uno c'ha il palmo piccolo e il frutto grosso, chiaramente il frutto è sproporzionato. Se uno ha un palmone, ci puoi mettere dentro anche un mango e chiaramente sembra una formica. Comunque questo è un melariano. Il melariano è una delle tante sottotribù alimentariste che sono convinti che si debba sopravvivere mangiando soltanto mele. Mele, soltanto mele. Perché? Perché l'uomo primordiale, quello che venne dall'Africa, la culla di tutte le civiltà, mangiava soltanto mele. E quindi bisogna mangiare mele. Quindi emigriamo tutti in Trentino, saremo felici. Dovremo semplicemente sporgere la mano e cogliere il frutto. Ma non a caso, probabilmente hanno una mistica segreta i melariani. Eva mangiò la mela per prima, non siamo finiti sulla terra, qui dobbiamo mangiare mele. Eterna dannazione, costretti a mangiare mele. Comunque ci sono persone che mangiano mele. Che si faranno? Boh, mele sbucciate, mele con la buccia, mele cotte, mele grattugiate, torta di mele, frittelle con le mele. Insomma, come Johnny Seme di Mela, che è un vecchio cartone da Disney che affonda le radici in un'antica leggenda. Ci fosse questo signore, girava soltanto con una pentola che teneva in testa come cappello e un sacchetto di semi di mela, e ha colonizzato tutto il mondo appunto seminando le mele. Con le mele si fa tutto. Vabbè, questi sono i melariani, ma guardate, ce ne stanno tanti. Ci sono, questa mattina cercheremo di analizzare quelle che sono le tribù alimentari, gente che si nutre soltanto di frutta, gente si nutre soltanto di aria, soltanto di acqua. Poi ci sono pure i vegetariani, i vegetaliani, i vegani, ma ce ne sono di tutti i tipi, i crudisti, quelli che mangiano soltanto la cucina primitiva, quelli che mangiano gli uomini delle caverne, quindi non lo so, spolpano dei cosciotti pelosi di animali estinti con le loro zanne, non so cosa possano fare. Comunque sia, l'estremismo ha sempre una ricaduta in quelli che sono diventati gli usi comuni anche della gente banale, e fa sì che io possa tornare a casa ieri sera, dopo una giornata non ho avuto tempo nemmeno di pranzare, vado a vedere, a ravanare nel obitorio che si chiama frigorifero di famiglia, a vedere se c'è qualcosa. Tutto affamato, dico, ma ci sarà un coscettino di pollo vizzito, un avanzino di salame, una crosta di formaggio ingiallita, mi sarebbe bastato. Invece era pieno di roba, dico, ma cosa c'era da mangiare? C'era il quinoa. Ma che ci faccio col quinoa? Il quinoa cos'è? Una terrina di una specie di vomito di cane che ha mangiato male, e con tutta sta robettina, quello è il quinoa. C'è da mangiare il quinoa. O se no c'era un'alternativa, avendo un figlio fissato col Giappone, c'erano delle ottime frittelline fatte coi fagioli azuki giapponesi, che è da robettina marrone, che te la mangi, non capisci se è dolce o salata. Perché? Perché anche in una normalissima famiglia, dalle banalissime abitudini alimentari fuggiasche e approssimate, è entrata appunto il settarismo alimentare. Beh, io vorrei sentire i miei ascoltatori, mi dicono questa mattina due risposte rispetto alle mie domande. Qual è il tabù alimentare nella vostra casa? Quello che non si mangia, che non c'entra. Ma io ho provato a imporre l'impossibilità di varcare aglio e cavolfiore la soglia di casa mia, per motivi che ho spesso ragionato. Aglio e cavolfiore non possono entrare. Seconda, qual è la religione che ha invaso l'immaginario della vostra famiglia, per cui vi trovate sul piatto qualcosa che mai vorreste vedere nel vostro piatto? Queste due domande rispondetemi, semplicissime. Quanto ormai il fondamentalismo alimentare ha invaso anche la media, tranquilla e placida famiglia italiana? 800 24 00 24. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Un po' di beccaccia? No, grazie, sono fruttariana. Oh. Cos'è una fruttariana esattamente? Beh, noi crediamo che la frutta e le verdure abbiano dei sentimenti. E secondo noi cucinare è crudele. Mangiamo solo cose che sono già cadute dagli alberi o dai cespugli. Cose in effetti già morte. Ah. È giusto. Giusto. Perciò queste carote... Sono state ammazzate, sì. Ammazzate? Oh, povere carote. Bestiale. Sono domande che oggi si fa sempre più spesso. Anche l'insalatina forse è stata estirpata. Aveva una speranza di vita, poteva avere un avvenire, un sentimento. Fare tanti piccoli cespuglietti di insalata. O anche magari, non so, votarsi a vita alla contemplazione della grande insalata cosmica. E noi l'abbiamo estirpata, strappata, uccisa con l'aceto, soffocata con l'olio, martirizzata con il sale, con il pepe, con il limone e ce la siamo mangiata. Beh, voi pensate che in realtà queste domande non ci si fanno mai abbastanza. Io sto rischiando la mia incolumità fisica per aver osato dire che bisogna scrivere sul vasetto dei trattamenti... oddio mio, adesso mi viene manco... parola in questo momento. Comunque i trattamenti omeopatici è quello che c'è dentro. Tutti hanno detto no, vergognati, l'omeopatia è una scienza. Benissimo, non rispetto l'omeopatia. Però se ogni tanto traduceste quello che c'è scritto sul principio che sarebbe dentro il trattamento omeopatico, vedreste che c'è comunque un animale ucciso. C'è addirittura, che ne so, estratto di ano di puzzola. La puzzola, per prendergli l'ano, estrarglielo, bisogna in qualche maniera fargli del male. Oppure cistifellea di mucca morta di qualche malattia, non è che gli si prende da via, bisogna, quindi anche l'omeopatia comunque prevede l'olocausto di poveri animaletti. Ma detto questo, leggo qualche impressione del pubblico. L'aceto di mele, c'è chi appunto soffre perché a casa sua entra l'aceto di mele. Noi siamo abituati all'aceto, si fa col vino, no, invece si fa con le mele. Qual è la differenza? L'aceto di mele è bianco, trasparente, è acido. L'aceto di vino c'è ancora questo retrogusto di cose antiche di una volta. Poi, in casa non mangiamo animali allevati per essere uccisi, mangiamo pesci rigorosamente pescato da noi. Non vedo la differenza. Il pesce, poveraccio, viveva tranquillo, stava lì nel mare, nel lago, nel fiumiciattolo, non è allevato per essere ucciso, ma vive una vita tranquilla. Gli arriva un amo, lo prende e finisce nella padella. Non è la stessa cosa, non si capisce bene. Beh, oggi abbiamo dato un senso nuovo anche a questa sperimentazione che stiamo facendo attraverso la ricerca di avviare, di portare dei giovani alla meravigliosa professione della radiofonia. Vi ho già detto più volte che l'abbiamo avuti come ospiti, che da quest'anno c'è un master tenuto appunto dalla Business School del Sole 24 Ore dedicato appunto alla radio, un master in radio, new media, management e content della Business School del Sole 24 Ore. Questi ragazzi, spesso avete sentito, hanno svolto con interesse e con grande applicazione tutti i mesi del master, hanno cominciato a fare delle cose, a applicarsi dei prodotti radiofonici. A un gruppo di questi ragazzi abbiamo chiesto di sceneggiare attraverso una sitcom che hanno chiamato Frigo Vuoto, appunto, sitcom che noi riproporremo per 4 settimane, tutti i giovedì come oggi, quella che potrebbe essere una situazione tipo di un gruppo di ragazzi che vivono soli in un appartamento, ragazzi studenti fuori sede o nel loro caso masterizzati fuori sede, e allora proponiamo il tema del giorno, diciamo oggi parleremo di questo e come la vivono loro dal punto di vista dell'immaginario di giovani generazioni che sono sempre il bersaglio più inarrivabile da tutti i media nostrani. Beh, così loro hanno visto l'idea che ci possa essere l'infiltraggio di una sorta di teologia dell'alimentazione anche nel mondo giovanile. Frigo Vuoto. Convivi e lascia vivere. Con Grazia, Enrica, Anna e Giulia. Raga, non è possibile, non c'è niente da mangiare. Ma non dovevi fare la spesa tu oggi? Sì, vabbè, ho capito, anche oggi frigo vuoto. Ragazzi, io non vi capisco, ma perché non provate una settimana? Solo una settimana. Cucino io, colazione, pranzo e cena. A fine settimana sarete belle depurate. Meno male che non vivo con voi. Ah, perché non vivi qui? Harry, non sei divertente. Io vivo con quel cretino di Max, purtroppo. Ma se volete mi trasferisco qui. No! Comunque mangiare sano, non solamente quinoa, fa bene, molto meglio della carne tutti i giorni. Ma certo! Ma vuoi mettere con una bella parmigiana mandata da mia mamma, melanzane fritte, olio, salsa di pomodoro, formaggio? Ah. La verità è che non capite niente, mangiatevi le schifezze, va? Ma quali schifezze? Tutto fatto in casa, tanto genuino quanto la tua quinoa. Io voglio morire felice, non depressa, secca e con i germoglietti in pancia. Ma che discorsi fai, sei veramente troppo antica. Voglio la Nutella, con l'olio di palma, la Coca-Cola e i carboidrati raffinati. Ma non mi far sentir male, ti prego. Ecco, questi ragazzi davanti al televisore la sera, invece di tenersi la birra in mano e mangiarsi il salsicciotto come normale che si faccia perlomeno una visione tradizionale della vita fuori sede, si preoccupano della cucina che possa depurarli. Ma cosa avranno mai da depurarsi dei ragazzi fra i 20 e i 25 anni? Eppure anche lì appare l'orrenda quinoa, che ancora devo capire dove viene, dove si compra, chi la spaccia la quinoa. Per arrivare nel mio frigorifero, devo dire, la quinoa ne ha fatta di strada. Vedere ieri quella sorta di terrina, con quella robettina informe, quella manciata di bolo alimentare messo lì con scritto quinoa, ti fa bene, ti depura, ma io volevo mangiare. Mi sono spremuto due pomodori con le mani e con i denti, ho messo a bollire un pugno di pasta e a mezzanotte finalmente ho mangiato qualcosa di umano, di cristiano. Daniele, buongiorno. Buondì. L'ascolto. Allora, io abitavo in una casa di ringhiera quando ero bambino con la mia famiglia e sullo stesso pianerottolo c'era anche mia nonna. Avevo circa 3 anni, 3 anni e mezzo e mi stavo bevendo, succhiando l'uovo, l'ovetto di gallina, bello fresco. Cioè bucato, no? E bevuto così? Esatto. Mia nonna mi ha carezzato la testa e mi ha detto: bevi, bevi l'ovetto che poi ti nasce il pulcino in pancia. Mamma mia. Più le uova. Terribile questa cosa, cioè l'ha condizionata per tutta la vita. Tutta la vita. Se lei mangia un uovo sente subito pio pio pio, il pulcino pio che comincia a entrare dentro la sua stomaca. Non ci penso più a quella cosa lì, però non mangio le uova, perlomeno non mangio le uova che vedo si rompono così, oppure che so, per esempio la frittata non la mangio, la cotoletta alla milanese me la divoro. Ah già, perché il pulcino ormai è spalmato nella crosticina, quindi non si vede. Beh, le posso dire, mi viene in mente un'altra cosa orribile che comincia a andare molto di moda anche alle mie latitudini: la frittata senza uovo. Non so perché, per colpa di qualche disgraziata dietista che è la frittata, lo sai come funziona? Vendono dei contenitori tipo quelli del latte, dentro c'è solo l'albume, schifosissimo, sembra una scatarrata gigante, e mi fanno delle frittatine fatte solo con l'albume, tutte le proteine sono soltanto nell'albume, il colesterolo sta nel rosso, quindi mi mangio una frittata senza uovo, una frittata bianca, che non sa di, boh sì, sa di qualcosa, dipende, ci metti la quinoa, sa di quinoa. No, è sempre la frittata senza uovo, quindi nella frittata senza uovo non c'è il pulcino perché manca proprio la parte rossa dove nasce il pulcino. Si faccia la frittata senza uovo, sentirà meno pulcini nella pancia. Anna Maria. Sì? L'ascolto. Sì. Mi sente? Sì, sì, sì. Non so, cosa voleva dirmi? No, lei ci ha chiamato, vuol parlare di Ah no, io ho chiamato solo per dire la mia idea. Il mio frigo non entrerà mai, lo dicevo prima, il pesce crudo, da mangiare crudo. Perché puzza? No, perché no, proprio lo detesto e anche per questioni igieniche non mi piace il pesce crudo. Quindi lei non entrerà mai, nel suo frigo non entrerà mai un pesce crudo, per questioni igieniche? No, un pesce crudo io lo cucino possibilmente subito. Ah ecco, però l'attimo che lo compra dal pescheria e lo mette in frigo se è crudo? Possibile, se è possibile sì. Ma perché le fa schifo, le fa senso, pensa che possa riuscire fuori? No, è crudo, no, proprio non lo sopporto. Però è già abbattuto il pesce crudo, nel senso l'hanno già messo... Ma non sempre, in pescheria non credo che sia abbattuto. Per legge devono abbattere, con scherzi. In ogni caso non mi piace, non riesco a... Diciamo il suo limite, il suo tabù è il pesce crudo. È uno di alcuni. E alcuni altri. Ad ogni modo, tornando alla frittata che lei diceva, fatalità, stamattina io avevo un link qua che... una pagina che ho letto e che avevo condiviso anni fa. Allora, la frittata si può fare anche proprio senza albume, che non ripeto quello che ha detto lei. No, la mia fanno senza tuorlo, tutto albume senza tuorlo, è quella differenza. No, invece, la frittata, che la chiamano farina frittata, una roba del genere. Sì. E viene fatta in genere con la farina di ceci. E dopo con verdura sbattuta, e la possono mangiare, io non lo sono, possono mangiare anche i vegani, ecco. Ah, quindi non c'è l'uovo, non c'è l'uovo, non c'è niente. No, non c'è proprio assolutamente l'uovo. Allora perché chiamano la frittata, chiamate la ceciata? Sì, perché c'è anche l'hamburger vegano, è un attrezzo marrone, uguale a vederlo, uguale. Anzi, l'odore anche somiglia un po', però non c'è niente di carne. Vabbè, è importante, è il simulacro. Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca. Giuseppe Neri è un neuropsichiatra, past president Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Vediamo un po' di capire che fase sta attraversando l'umanità, se è così concentrata sulla necessità di trovare il cibo giusto, quasi fosse una sorta di panacea metafisica. C'è qualcosa di mistico ormai, rientra, si unisce l'anello fra i tabù alimentari dati dalle religioni e i tabù che noi ci imponiamo, chissà, per qualche bisogno di purificazione estrema. Non ho ben capito. Una cosa su cui sono d'accordo è l'approccio di tipo religioso. Alcune scelte di comportamento alimentare, perché stiamo parlando di comportamenti alimentari e noi dal punto di vista medico e psichiatrico abbiamo uno spettro di comportamenti alimentari che da quelli condivisi, comuni, più diffusi arriva agli estremi che tutti purtroppo conosciamo con forme molto gravi, molto pesanti, che sono l'anoressia o la bulimia. Invece qua sono delle scelte selettive di, come dicevi giustamente tu, tribù 7, che proprio con la parola 7 connotano una scelta fideistica di appartenenza a una specie di non casta privilegiata, ma sicuramente gruppo di eletti che hanno sicuramente compreso la vera modalità corretta di alimentarsi, che dispongono di verità assolute che non discutono con altri. Uno degli altri estremi di cui alcune di queste tendenze sono quelli di essere profondamente integralisti, per niente aperti al confronto e al dibattito, ma depositari di verità assolute che vogliono non soltanto sostenere e difendere, ma imporre agli interlocutori. Una delle peggiori sciagure che sarà capitato anche a te è trovarti una sera a cena con una simpatica, giovane, gradevole signora 30-40enne vegana estremamente determinata. Posso dirti una cosa, Giuseppe? C'è di pezzo, c'è il crudista. Il crudista poi diciamo contamina in degli usi che corrisponde al fatto che tu debba un giorno comprare l'estrattore. Ti viene imposto di comprare l'estrattore, costerà, non è che costa cifre eccessive, ma sono sempre quei 100-200 euro. Ti porti un coso a casa che poi a casa lo useranno una volta. Una volta usato, la prima volta ci si accorge che per pulirlo bisogna passare due ore. L'estrattore rimane lì incontaminato come un feticcio. C'è una costruzione di nuovi idoli domestici, non so, degli dei lari che ci inventiamo noi ogni giorno. Sì, questo è per l'aspetto roba soltanto cruda, ma tu sai che ci sono dei melariani ortodossi, come ci sono gli ebrei ultraortodossi o ci sono i wahhabiti fra gli islamici ultraortodossi, che mangiano le mele ma solo quelle che sono cadute dall'albero, perché non bisogna fare violenza alla pianta andando a raccogliere. Quindi soltanto mele marce, diciamo. Sono cadute dall'albero. Cadute così, abbottate in qualche maniera. Ma io per evitare che chi ci ascolta si faccia idee strane su chi sta parlando, io sono uno che mangerà forse una o due volte al mese la carne e ai miei figli ho dato nessun merendina pronta del commercio, ma di solito pane, olio di oliva di qualcuno che lo faceva in campagna fatto bene e pomodori. Quindi non c'è questo atteggiamento carnivoro feroce, c'è sicuramente la possibilità di fare una serie di scelte in un panorama grande di opzioni. Ricordiamoci che più di un secolo e mezzo fa il maestro di Marx e di Engels, che era Feuerbach, quando parlava del fatto che siamo quello che mangiamo, non è che faceva filosofia del comportamento alimentare, diceva: se alle masse dei diseredati, di quelli che non hanno come arrivare a fine giornata, e gli diamo almeno di che alimentarsi correttamente, miglioriamo in maniera significativa la qualità della nostra vita. I nostri nonni negli anni 20 e 30 erano soggetti a malattie che sono state eradicate soltanto non con gli antibiotici, ma con una qualità delle acque e del cibo nettamente superiore, e un cibo ricco di proteine che deriva da una dieta onnivora. Questo è un dato storico che vale per tutti i paesi, dalla nostra Italia al resto d'Europa. Poi adesso entriamo in temi un pochino più specifici, quanto poi in realtà ci siano le parole di passo, le leggende momentanee, che improvvisamente siamo tutti intolleranti al glutine, tutti intolleranti al lattosio, perché a un certo punto, se deve esserci un succedaneo delle credenze religiose che stanno evaporando, stanno passando di moda, così bisogna ricostruire delle religioni, e a tavola ricostruiamo le più potenti delle nostre religioni, quindi ci creiamo dei vincoli laddove potremmo essere liberissimi. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Ma dai Anna, ma neanche a te piace sta quinoa, solo che non lo puoi ammettere. Ma no ragazzi, guarda, ormai siamo abituati a mangiare solo porcate, non va bene. Basterebbe dedicare un po' più di tempo alla cucina, siamo troppo pigri. Che poi posso capire la quinoa più o meno, ma il kamut, ma lo sapete che in realtà è nato da modificazioni genetiche? È una specie di marchio in realtà, il marchio di un'azienda che ha creato il laboratorio sto cereale. E tutti credono che sia naturale, biologico, ma per favore. Però è un grano sano, fatto da cereali migliori e meno dannosi. Sì, è nato il laboratorio dove è finita la natura e il bio con cui rompi ogni giorno. Ma poi Anna, solo tu hai il tempo per cucinare sta roba. O quantomeno tu puoi, perché sei sempre a casa a non fare niente. Almeno io sono a casa mia. E comunque io studio in casa, non è che sto sul divano tutto il giorno a guardare la TV. Questa è sempre la sitcom dei ragazzi del master della Business School del Sole 24 Ore, che hanno prodotto questa loro idea di quello che può essere il tabù alimentare, la religione legata all'alimentazione che filtra anche nelle liberissime menti di un liberissimo appartamento di liberissimi quattro ragazzi fuori sede che stanno a Milano a fare il sole, il master al Sole 24 Ore. Sentiamo Danilo. Danilo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Lei cosa è? Io sono un crudista, io e la mia compagna. Ah, lei allora quindi è colpevole dell'estrattore che sono stato costretto a comprare? Assolutamente. È solo che una di volta mangiamo solo la pasta, il resto tutto, anche la carne, sì, ma pesce, per, carne, ma per pulire tutto. L'estrattore quanto tempo ci vuole? È una cosa terribile. No. È come una mezz'ora di pulizia, rimane tutto intasato dentro. Poi quell'altra cosa un po' schifosetta, che quella specie di pappetta vomitosa che avanza, bisogna ricucinarla a sua volta, rifarci altre cose, vero? No, dipende. Come dipende? La filosofia è quella. Quella si, mettetela da parte, si è in frigo, dopo una settimana fa la muffa e non ci fa niente. Ma bisognerebbe ricucinarla. Non ha mai ucciso nessuno in ogni caso. Vabbè, se uno può scegliere, se proprio non va a finire nel carcio dello Spielberg, la muffa non la mangia. Vabbè, è chiaro. Però, ma andiamo appunto, com'è la vita di un crudista? Guardi, è regolare. Regolare, perché noi ci controlliamo ogni 3 mesi. Ma cominciamo dalla mattina. Il caffè in chicchi, naturalmente, perché se l'esse crudo non si cuoce. Ma no, vabbè, non è così spinto. Non lo so. E allora, la mattina cosa mangia un crudista? Beh, mangiamo frutta. Cruda, certo. Cruda, chiaramente. Frutta. Ma voi avete problemi se caduta dagli alberi o raccolta? Anche raccolta? No, raccolta. Quello è un estremismo. Ma poi, esatto. Scusi, il cadutista come fa a mangiare la frutta? Deve tenersi un banano, un ananasso, un melo, un pero nel terrazzino di casa? Come fa se no a mangiare? No, una domanda che lei ne sa più di me. No, si immagino. Effettivamente la curiosità c'è, ma io penso che non la mangino. Cioè, si limitano ad avere le frutte, la frutta che c'è da noi. Se no c'è un'etichetta rigorosamente caduta dall'albero, come rigorosamente kasher. Ad esempio, no? Vicino a casa cadono le pigne, sempre frutta è. Uno mangia solo i pinoli. Esatto. Il pinolo va rotto, il guscio del pinolo, è una violenza che si fa alla povera pigna innocente. Sì. Deve aspettare che s'apra anche il pinolo. Il top del top è la carne cruda. Noi una volta abbiamo anche mangiato la selvaggina. Ma adesso la chiamano la tartare, la chiamano. Quindi, esatto. No, ma proprio tutto il re, la tartare, vabbè. Ma voi mangiate proprio il cosciotto di lepre scuoiato e mangiato? Bravo, sfilettato, crudo, buonissimo. Sushi di capretta? Sushi di lepre, sushi di capretta, di agnello, di tutto. Di pesce, tutto. Io penso che questi fossero i primitivisti, quelli che mangiavano la cucina primitiva. Quindi anche il crudista mangia carne cruda. I primitivi mangiavano così, chiaramente. E di che sai? È buona, si mangia la carne cruda? Si mangia? Certo, si mangia. Qual è il principio? Perché sembrava un passo avanti nella civiltà passare dal crudo al cotto. Era proprio il momento in cui ci siamo un po' evoluti, abbiamo cotto le cose che si mangiavano crude. E voi invece, perché questo passo indietro? Innanzitutto perché così senti il sapore vero della pietanza, della carne, okay. E poi perché a noi piace di più. Vabbè, se vi piace, mica... cioè non fate male a nessuno, a me sta bene, è una curiosità, ve lo chiedevo, perché magari vi sta bene così. Quindi a casa vostra, diciamo, non c'è consumo di gas domestico per quanto riguarda, no, il fornello? Molto poco, cuociamo la pasta, ecco, il caffè, si cuoce chiaramente le cose che non... Qui che si cuoce? Pasta, caffè? E basta. Pasta, caffè e basta, credo. Il sugo, ecco, il sugo per condire la pasta lo cuociamo. E perché i pomodori non li mettete crudi? Non si... Beh, cotto è un po' più buono. Beh, cotto. Che discorso, anche il cosciotto di lepre è più buono cotto. Questo no. È oggettivo questo. Questo no. Vabbè, abbiamo capito, è importante, no, questo è importante. Non avete mai preso, che ne so, una piccola infezione, qualche vermicello, perché può capitare se non si cuoce la carne, no? No, mai, mai, lo ripeto, noi facciamo regolarmente tutti i controlli. State zero. A buono. Va bene, siete fortunati. Chiaramente alcuni pesci li abbattiamo. E quelli per forza, quello si rischia la vita. Perché si rischia la morte, non è il vermicello, è un verme che ti mangia resto... l'intestino, è una cosa bruttissima. Esatto. E poi il resto tagliate e mangiate un po' d'olio, un po' di sale. Quindi quando andate al macellaio prendete la fettina e tale quale ve la mettete sul piatto e ve la mangiate. Tagliata molto fine, sì, un po' di carpaccio. Come carpaccio, sì, perché sennò mangiare una bistecca morsi proprio bisogna essere... Vabbè. Però quando la mangiavo cotta la facevo cuocere al sangue, quindi anche la bistecca alta fine era cotta, solo fuori, dentro era... Sì, sempre quello. Sì. Ma io sono un antisanguista, quindi mi piace cotta perché? Carne. Non lo so, perché mi fa schifo il sapore del sangue. Ma troppo alta poi è dura, si indurisce. Vabbè, poi mangio manco la bistecca, mangio poca carne. Non vado matto, mi piace il maiale appena ammazzato, ma la carne in generale non ci vado matto. Allora, come avessi bestemmiato adesso, aspetto la gente qua fuori. Agatino. Buongiorno innanzitutto. L'ascolto. Buongiorno. Gianluca, io mi ricordo di lei e l'ascolto dai tempi di Colem. Vabbè. No, dove è andato a finire il Colem? Io volevo dire solo questo. Lo domando anch'io. Volevo dire solo questo, io chiamo da Carrania e ricordo con estrema dolcezza un momento che poi era un momento infinito, perché praticamente durava tutta l'estate. Si facevano le partite di calcio che duravano chiaramente dalle 13 alle 19, ok, nel condominio, e alla fine della partita venivamo tutti richiamati dal pane e marmellata fatto in casa, marmellata esclusivamente e rigorosamente di pere, fatta a casa da mia madre, sapeva fare solo quella di pere, ok? E tutto il condominio fondamentalmente si metteva in fila per prendere questa fetta di pane e marmellata di pere. La domanda è, oggi, in questo mondo così crudista, così vegano, così particolare, queste nostre antiche tradizioni. No, le pere penso, guardi, le pere sono ancora consentite, penso, da quasi tutte le religioni. Sì, solo i cadutisti, mi sembra, che sono quelli che mangiano solo la frutta che cade. Vogliono le pere che cascano. C'è chi piace le pere cadenti e chi piace le pere belle ancora come sono, come natura le ha fatte. Quindi comunque sia, la pera è abbastanza ammessa. Entriamo però in un percorso ancora più metafisico. Io sono uscito con la possibilità di alimentarmi con un'alimentazione molto leggera che in questo momento sto seguendo, che è un'alimentazione liquida. Sabato scorso sono uscito con mia figlia in centro, io vengo da Bologna, una città molto ricca dal punto di vista del cibo, molto grassa, anche di profumi e odori, e io mi sono nutrito quel pomeriggio di tutti i profumi e odori che una volta di cui ero disinteressato, per cui anche alimenti che assolutamente non entravano nemmeno nei miei pensieri, come le cosce di prosciutto, la mortadella, c'era addirittura un evento con le mortadelle in piazza, e la cosa particolare mi ha dato molto piacere questa apertura, e il fatto di nutrirmi con gli occhi è stato molto intenso a un livello praticamente fisico, e infatti quando sono arrivata a casa ero sazia. Però mi viene da domandare, ma se la mortadella... Voi pensate, questo signore è fortunato, è un respiriano, vive annusando, sniffa mortadella come se avesse mangiato la mortadella, ma non pensate, guardate, c'è ancora un piano ancora più profondo nella possibilità respiriana di nutrirsi. C'è qualche alimento che in particolare le è mancato di più? No, durante i 21 giorni... A lei cotolette? Per assurdo, sì, ed è una memoria della mia infanzia, perché negli ultimi anni assolutamente non mangiavo cotolette da anni, ma proprio vai a vedere che memorie hai nel tuo essere, risalivano all'infanzia. Quindi la cotoletta che hai mangiato, magari l'ultima volta, 7, 8, 10 anni, si trova ancora nelle tue cellule? Probabilmente sì. Nella memoria delle tue cellule, quindi è energia delle... Sì. Ma infatti è la storia. Giuseppe Neri, hai capito la filosofia respiriana? Si nutre il respiro e del ricordo, è come l'omeopatia che è sul ricordo dell'acqua, la panzana della memoria dell'acqua. E la memoria della cotoletta che rimane nelle nostre cellule ci continua a nutrire in eterno. Tu sai benissimo che la storia francese della memoria dell'acqua è stata smentita nell'arco di pochi mesi a suo tempo. Invece la memoria olfattiva di cui parlava i nostri amici che raccontavano la loro esperienza, una memoria molto profonda che si va a situare nelle parti più profonde del nostro cervello antico ed è perfettamente consolidata rispetto alle tracce che abbiamo memorizzato nella nostra vita anche infantile, quindi dal punto di vista emotivo-affettivo, cioè il piacere, l'emozione di questo profumo, di questo odore riscoperto è innegabile ed è autentico. Il problema è che dopo 24-48 ore da quello, se non metti calorie nell'organismo, cominci a fare il ciao ciao con la manina e fra la 36esima e la 48esima ora vai, a seconda della tua religione, o nelle praterie di Manitou o insieme alle 70 vergini se sei stato un bravo musulmano di Allah, per cui puoi olfattivamente gratificarti quanto vuoi, ma se non metti nel sistema in cui noi viviamo, cioè nel nostro organismo, del carburante sotto forma di calorie, puoi annusare quanto vuoi, vai verso le praterie di Manitou. Oddio, c'è tanta gente che si accontenta di annusare senza mai, diciamo, realizzare quello che è un piacere e una soddisfazione delle proprie concupiscenze, ma l'annusare nel campo alimentare, devo dire che per me rappresenta veramente una novità. Ci sentiamo tra un istante. Melog, cronache meridiane. Anna! Riccardo al telefono. Pronto, amore? Ciao tesorino, come va? Bene, bene. Tu dove sei? Guarda, sono qui al fast food vegano, quello nuovo in centro. Cucciola, hanno messo sul menù delle polpettine di tofu con riduzione di shoyu che sembrano deliziose. Ah, ma dai, ma allora poi mi dici com'è? Stavo appunto dicendo alle ragazze che stai cambiando la tua dieta e sei bravissimo. Guarda, amore, in questi giorni sto iniziando a notare i primi risultati, soprattutto a livello di equilibrio omeostatico. Mi sento proprio... Ciao Riccardo, solito kebab, doppia carne senza cipolla, tutto ma niente? No, con cipolle. Amore, ma dove sei? Amore, te l'ho detto, sono qui al fast food vegano. No, non è vero, ho sentito la voce del kebabaro, mi stai prendendo per il culo. Cosa dici? Dire patatine? Eccolo lì! Ma no, tesoro, ti ho detto che sono al vegano, fidati. Ma non è vero, non è vero. Oh, ma io mi sto impegnando così tanto, tu butti tutto nel cesso. Ma tu hai idea di cosa ci mettono in quella roba? Senti, Anna, stai tranquilla, eh? Non mi sembra il caso di drammatizzare adesso. Drammatizzare? Ma io non ce la faccio più con te, io non so più come cazzo fare. Adesso butti via il kebab e vieni qui. Buttare via il kebab? Amore, questo non succederà. Adesso torni a casa, ti ho detto. Andiamo a correre poi in palestra. Ma basta! Abdul, toglimi l'insalata dal kebab e mettimi dentro due patatine fritte, va? Certo, Riccardo. Va bene, non ti preoccupare, fai pure come ti pare, poi vedrai. Ah, sì? Abdul, dammi anche due birrette, va? Certo, Riccardo. Ah, adesso ricomincia anche con la birra e tutte le promesse che ci siamo fatti. Guarda, io non so più come fare con te. Ma non devi fare niente, non devi fare niente. Sono due anni che mangio plankton accompagnato da muschi e licheni. Io non ne posso più, Anna. Ho fame. Basta, io non ti riconosco più. Sai cosa ti dico? Vaffanculo. Ma vaffanculo tu. Ecco com'è vissuta nell'ambito di una piccola comunità di giovani, che sono poi gli studenti del nostro master di radio, sono prodotti in questa sitcom la nuova religione alimentare, anzi la nuova religione assoluta alimentare, la prova d'amore che in tempi passati si articolava in altri piani, su altri domini, è nell'osservanza della castità alimentare. Il ragazzo deve nascondersi dal kebabaro, mangiare kebab come consumasse un peccato di adulterio, un tradimento momento sentimentale. Mangia il kebab con senso di colpa, perché deve essere puro, purificato. Ma come una volta c'erano le ragazze che volevano arrivare vergini al matrimonio, ti costringevano a faticosissime, impervie conquiste degli automatici che sbottonavano le loro camicette, dei gancetti e i loro reggiseni. Ecco, la stessa cosa oggi, c'è questa prova dell'alito. Fammi sentire se hai mangiato il kebab. No, sei solo di quinoa, quindi passa, è aperta. Roberto, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io mi chiamo Roberto, sono di Roma, sono un melariano. Sono melariano, sono fruttariano in realtà. Ma di quelli che cadono o di quelle che si possono anche raccogliere? No. Si chiama melarismo sostenibile 3M. Melarismo sostenibile? Sì, 3M, non è una religione, anzi è tutt'altro. Scusi, voi vi imponete un regime alimentare che è proprio di no, non ce lo imponiamo, perché ci sono delle diete di transito e sono ragionevolissime, in quanto lasciano a tutti la libertà di arrivare al melarismo o non arrivare al melarismo. Qual è il punto d'arrivo, diciamo, la realizzazione massima di un melariano? Mangiare mele. Ma di qualunque tipo? Stark. Come lei ha ricordato. Però scusi, ci saranno varie sette, perché c'ha le Stark, c'ha le Annurche, chi c'ha le Renette, chi c'ha. No, ma per un semplice motivo, l'ha detto un premio Nobel che si chiama Carlo Sirtori, che ha scritto un libro che si intitola, potete trovare tutti e comprarlo, La mela frutto dal volto umano. Scusi, ma Steve Jobs è uno dei vostri padri fondatori allora? No, è un premio Nobel, un medico. No, Steve Jobs, colui che ha inventato la mela applicata, diciamo, all'informatica. No, non è stata un'invenzione, è stato più che altro, ci sono stati dei padri che hanno aperto, hanno introdotto alcune cose, alcune documentazioni. Ma lo sa l'origine del marchio della Apple? È la Macintosh, la mela Macintosh che lui mangiava sempre. No, ve lo dico così, vi create un pantheon di melariani. Steve Jobs mangiava queste mele Macintosh, poi quando dovevano dare il nome alla sua creatura, cioè chiamiamola Macintosh perché è la mela che mangio io, poi divenne Apple perché il disegno era la mela morsicata, nasce da questo. Sì. Quindi il melariano comunque ha come punto di arrivo massimo il nutrirsi soltanto di mele di un certo tipo. Sono quelle gialle, sono. Ma sarebbe, tra le altre cose, neanche in un contesto, diciamo, tradizionale, cioè tra quelli che mangiano altre cose, perché sembra abbastanza complicato. Diciamo che si mangerebbe in questo modo così corretto per non intossicarsi più con cibo aspecifico, cioè ogni specie che esiste sulla terra di animali, tranne noi, ha un cibo specie specifico, no? Per esempio le mucche sono erbivore. Sì, perché proprio la mela? Che ne so, no, l'albicocca, la susina, la banana. Sì, come no. Allora, come non siete melariani, bananiani pure. Fruttariani, però con questa, come ha detto lei, questo punto di arrivo, che sarebbe quello di riuscire a mangiare solo mele, a nutrirsi di solo mele. Perché diciamo, scusi, mi faccia capire. Sì. Il circolo più alto, diciamo, la casta sacerdotale dei fruttariani sono i melariani, che l'ha considerata il punto. Ma no, perché sono in mezzo a tutti quanti gli altri fruttariani, fanno un ciclo che durerà 2 mesi o 3 mesi, sì, ma mangiano solo mele. Scusi, lei è melariano? No, io ancora non sono melariano, sono fruttariano e devo dire che è molto. Eh sì, dura. Poi i melariani li guarda come si guarda dei privi, cioè i fichiani, i poveracci, sono dei poveretti nei confronti dei melariani. No, è così. Credo che sia più un complesso ancora addirittura mangiare solo crudo. Io gli ammiro i crudisti, perché il crudo, il crudista. Ma la mela cotta, la mela cotta ve la potete fare? Sì, ce la possiamo fare. C'è una dieta di transito che dura secondo quanto uno riesce a liberarsi da tabù psicologici, da cibo tossico che ha mangiato per tanti anni. Io per esempio ho 54 anni, ho fatto per 27 anni la macrobiotica e mi sono accorto dopo 27 anni di macrobiotica che avevo gli acidi urici. Scusa, ma le mele, lo sapete che la mela è uno dei frutti che ha più trattamenti anticrittogamici che esistono? Esatto, come sì. Dove trovate le mele non trattate? Biologiche. Ah, mele comunque biologiche. Non garantisce, in ogni caso non garantirebbe la purezza neanche quello, perché immagini a quello che tira giù la pioggia. Cioè. Quindi anche il biologico. Quindi se uno potesse dire il paradiso terrestre del melariano è un albero di mele piantato nel suo territorio. No, è la foresta di meli famosa che sta in Kazakistan, è quella più ancora famosa perché è stato ritrovato lì l'uomo, no, di 8 milioni di anni fa. In Kenya. In Kenya, nella Rift Valley. C'è un museo e c'è scritto un sacco di cose. E per voi è come la Mecca, è come il Santo Sepolcro, come Santiago di Compostela? No, assolutamente, non c'è andato quasi nessun fruttariano, ci sono andati dei miei amici per vedere, per confrontarsi, per capire, e pensi che quando sono arrivati sono rimasti molto delusi perché alla fine si era parlato tanto di questa cosa, ma in realtà poi diciamo non è che lì vedi quello che succedeva 8 milioni di anni fa. Scusi, ma se lei deve uscire a cena con qualcuno, che fa? Si porta... Esco a cena e mangio, posso mangiare, riesco a mangiare il fruttariano perché nella dieta di transito che si chiama MDA io posso mangiare la sera qualsiasi cosa, ma l'unica cosa che si differenzia dagli altri è che io devo mangiare con una sequenza, cioè inizio dal cibo più specifico, cioè quello più vicino alla nostra alimentazione, cioè quella frugivora, e posso addirittura arrivare a mangiare la carne. Quindi un maialino arrosto, basta c'è una mela in bocca, ve lo potete mangiare. Vabbè, basta mettersi d'accordo. Beppe Neri. Non abbiamo capito, mi sembra ho dato giustizia al fruttariano che sentiva leso nell'integrità della sua religione, della sua visione della vita. Vedi che però alla fine ci sono sempre delle scappatoie, una volta abbracciata la fede, questo accade per tutte le religioni, quindi anche per la religione alimentare, poi ci sono sempre le vie di compromesso. Allora, piccola nota a margine, il professor Sirtori, che era un oncologo di fama internazionale che è morto circa 20 anni fa, non ha mai vinto il Nobel. Chiusa la parentesi, bello abbiamo avuto la fortuna di avere con noi a dialogare stamattina delle persone che non appartengono alle schiere dei pasdaran della dieta vegana, perché se ci fosse capitato, secondo me il tono e il contenuto delle nostre conversazioni avrebbe preso un'altra piega, e questo è una cosa che non può fare altro che farmi piacere. Va bene, grazie Beppe Neri, grazie a tutti i fruttariani, vegani, aerobici che mi hanno telefonato. Sarà per la prossima, vedremo un po' se troverò anch'io la via dell'espiazione e della giusta misura, chissà.